di tanto in tanto si ripropone con violenza il problema se il suicidio sia un peccato così grave da essere imperdonabile. Per quanto mi riguarda, ho conosciuto tre persone che si sono tolte la vita. Uno era laureato, l'altro un giovane con dei limiti psicologici, la terza persona era una credente gravemente ammalata e stanca della situazione prima di arrivare ad essere una larva a sospeso, una terapia accanita. Per di più erano persone che si professavano credenti in Cristo. L'estremo atto di togliersi la vita ha sempre suscitato l'interesse delle persone perché un simile gesto è una pugnalata alla nostra coscienza. Come regolarsi di fronte ad un suicida? Che opinione possiamo esprimere? Al di là delle conclusioni che possiamo trarre, una premessa è doverosa. Per quanto possiamo immedesimarci nel gesto di un suicida, ci è preclusa la possibilità di esprimere un giudizio morale. Nessuno, ma proprio nessuno, può comprendere appieno il dramma nel quale vive di chi si toglie la vita. Se il gesto è proporzionato alla gravità della situazione, questa deve essere veramente grave. Per quanto potessimo anche non ritenere la situazione così grave al punto da spingere al suicidio, la parola di Dio ci ordina di essere clementi e misericordiosi. Nel libro di Giobbe leggiamo che a colui che è afflitto l'amico dovrebbe mostrare clemenza anche se egli dovesse abbandonare il timore dell'Onnipotente. Giobbe 6 e 14. Oppure, secondo la versione offerta da altre traduzioni, l'uomo disfatto ha diritto alla pietà del suo prossimo. O ancora, pietà deve l'amico a colui che soccombe. Quando ci si trova di fronte a gesti estremi, la cosa più saggia è ammettere la nostra incapacità a comprendere e avere un conseguente atteggiamento di pietà, cioè una sensibilità umana che permette di essere comprensivi. Tenendo conto che la condanna espressa oggi nei confronti di un atteggiamento altrui potremmo arrivare un giorno a subirla dovendoci trovare a nostra volta in una circostanza a noi insopportabile. Chi conosce infatti ciò che gli capiterà tra un attimo? Sono troppe le persone che da un pulpito sputano sentenze inumane contro il suicidio, senza tener conto che il Dio della parola ha usato piuttosto un linguaggio duro e spietato contro i moventi malvagi e l'ipocrisia, anziché contro i gesti stessi. Certo, un atto sbagliato resta sempre tale. Ma un'esistenza cosparsa di malvagità e insensibilità è ripugnante agli occhi di Dio. Non tutti sono comprensivi nei confronti del suicida. Se io lo sono, molto probabilmente è dovuto a una esperienza che ha lasciato un profondo segno nella mia mente. Stavo facendo la doccia, quando ad un tratto sono rimasto quasi senza respiro. Il mio spavento e la mia angoscia sono stati tali che in un momento di tempo impercettibile, nella mia mente è passato il pensiero del suicidio. Questa idea era dettata dal timore della possibilità di dover condurre il resto della mia esistenza in una condizione permanentemente simile a quella che stavo attraversando. Eppure quello era un periodo fra i più sereni che io ricordi nella mia esistenza, le circostanze erano più che favorevoli, non avevo mai pensato al suicidio. Ma è bastato un decimo di secondo e un'esperienza improvvisa e impensabile per desiderare la morte. Ascoltando anche altre persone, sono arrivato alla conclusione che molto probabilmente in ognuno di noi abita il desiderio di farla finita piuttosto che passare certe esperienze. Alcuni non desiderano l'atto estremo di togliersi la vita solo perché non hanno avuto occasione di trovarsi nelle situazioni nelle quali cercherebbero subito la morte, ma di questo non hanno che da ringraziare il Dio delle circostanze. Nessuno di noi si conosce a fondo, fino a che non è messo alla prova. In merito è opportuno ricordare le parole che espresse Gesù così come le troviamo nel Vangelo di Matteo. Allora egli cominciò a rimproverare quelle città in cui la maggior parte delle sue opere potenti erano state fatte, perché esse non si erano ravvedute, dicendo: «Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti che sono state compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero pentite con sacco e cenere. Perciò io vi dico che nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate con più tolleranza di voi. E tu, o Capernaum, che sei stata innalzata fino al cielo, sarai abbassata fino all'inferno, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa esisterebbe ancora oggi. Pertanto io vi dico che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Matteo 11, 20-23. Gli abitanti delle città di Tiro, di Sidone, e soprattutto di Sodoma, erano irreligiosi e commettevano ogni sorta di male, ma poiché non avevano avuto l'opportunità di conoscere Cristo, erano da questo reputati migliori dei cittadini di Corazin, di Bethsaida e di Capernaum, dove Gesù aveva predicato e compiuto dei miracoli. Così, molte persone che si conducono in modo irreprensibile si sentono in dovere di condannare poiché si ritengono migliori del suicida, non mettendo in conto la loro ignoranza causata dal non aver, per grazia di Dio, mai conosciuto certe drammatiche esperienze, le quali forse avrebbero indotto al suicidio pure loro. E, più che opportuno allora non giudicare nulla prima del tempo, 1 Corinzi 4:5. La parola di Dio narra tre episodi di persone che si sono tolte la vita. Uno era un valoroso re, l'altro un grande uomo che noi oggi definiremmo un funzionario, il terzo faceva parte di un gruppo di amici che avevano lo scopo di far del bene al prossimo. Il monarca era il primo re di Israele e si chiamava Saul. Questa è la descrizione del suo suicidio nel primo libro di Samuele. Or i Filistei vennero a battaglia con Israele e israeliti fuggirono davanti ai Filistei e caddero uccisi sul monte Gilboa. I Filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figli, così i Filistei uccisero Jonathan, Abinadab e Malchishua, figli di Saul. La battaglia si fece aspra contro Saul, gli arcieri lo raggiunsero ed egli fu gravemente ferito dagli arcieri. Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la tua spada e trafiggimi con essa, non vengano questi incirconcisi a trafiggermi e a farsi beffe di me». Ma il suo scudiero non volle, perché era tutto spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anch'egli sulla propria spada e morì con lui. Così in quel giorno morirono insieme Saul, i suoi tre figli, il suo scudiero e tutti i suoi uomini. 1 Samuel 31, 1-6. Per onore, il re Saul si tolse la vita. O meglio, cercò di togliersi la vita. Perché in seguito leggiamo il resto di ciò che era avvenuto, narrato da un giovane amalechita a Davide, colui che in seguito divenne re. Mi trovavo per caso sul monte Gilboa, quando vidi Saul appoggiato alla sua lancia, mentre i carri e i cavalieri lo inseguivano da vicino. Egli si voltò indietro, mi vide e mi chiamò. Io risposi: eccomi. Egli mi chiese: chi sei tu? Gli risposi: sono un amalechita. Allora egli mi disse: avvicinati a me e uccidimi, perché una grande angoscia si è impadronita di me, ma la vita è ancora tutta in me. Così mi avvicinai a lui e lo uccisi, perché capivo che non avrebbe potuto vivere dopo la sua caduta. 2 Samuele 1:6-10. Nel suo gesto estremo, il re Saul non riuscì a procurarsi subito la morte, ma poiché era in fin di vita chiese il colpo di grazia. La morte di Saul ci pone in un certo senso di fronte alla problematica dell'eutanasia, cioè alla morte bella, alla morte dolce, alla morte tranquilla. La malechita non fu ritenuto innocente da Davide, ma di Saul non è detto che fosse stato condannato alla perdizione, ma piuttosto che fosse salvato. Infatti Samuele gli profetizzò la dichiarazione di Yahweh secondo la quale egli sarebbe andato con lui assieme ai propri figli. 1 Samuele 28:19. L'uomo politico che si tolse la vita fu Ahitofel, il consigliere del re Davide, i cui consigli avevano il valore di una parola detta da Dio. In una discussione, l'amico di Davide, Hushai, fece una proposta che fu ritenuta migliore del consiglio di Ahitofel. E per questo, quando Ahitofel vide che il suo consiglio non era stato seguito, sellò il suo asino e partì per andare a casa sua nella sua città. Mise in ordine le faccende di casa sua e si impiccò. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre. 2 Samuele 17:23. Il suicidio di Ahitofel era stato dettato da un atto di orgoglio, ma non leggiamo nelle scritture che sia stato condannato alle pene eterne. Il suicidio può essere collocato nella violazione del comandamento non ucciderai, il quale ha il senso di non assassinare, cioè di non fare vendetta. Perciò chi uccide se stesso non trasgredisce neppure nello stretto termine il comandamento, e non può essere considerato peggiore di un omicida. Il terzo personaggio suicida, del quale leggiamo nelle scritture, è Giuda Iscariota, il discepolo di Gesù. Impiccandosi il suo corpo, cadde per terra, e si squarciò in mezzo, e tutte le sue viscere si sparsero, Atti 1:18. L'atto di Giuda è certamente stato dettato dal rimorso, per aver tradito il figlio dell'uomo e da non avere accettato il perdono di Dio. Cristo testimoniò riguardo a lui definendolo il figlio della perdizione, Giovanni 17:12, non tanto per il suo gesto, ma per non aver accettato l'atto di riconciliazione offertogli da Gesù anche durante l'ultima cena. E, vero che con il suo gesto Giuda ha impedito la possibilità di ravvedersi, ma è altresì vero che l'irrimediabile rifiuto del perdono di Dio è avvenuto prima. Gesù parlò di un solo peccato che non è perdonabile, ed è il peccato contro la persona dello Spirito Santo. Questo peccato lo si commette in questa vita quando ci è la possibilità del ravvedimento, perciò il suicidio non può essere un peccato imperdonabile solo perché tale atto non permette più il ravvedimento. Il suicidio costituisce una trasgressione alla legge di Dio, ma non è il peccato dei peccati, non è un gesto che non sia compreso nel perdono di Dio, non condiziona la salvezza di chi è già salvato. Il suicidio è da evitare nel modo più assoluto, ma gravi disturbi psichici, pressioni psicologiche, terrore e tortura possono indurre a ricorrervi. A noi deboli mortali non resta che formulare ogni giorno la preghiera insegnataci da Gesù, non ci esporre alla tentazione. In questa preghiera è contenuto il desiderio di onorare Dio in qualsiasi situazione, anche nella tentazione del suicidio, e solo il Padre Celeste conosce la nostra fragile debolezza. Io non sono migliore di coloro da me conosciuti che sono ricorsi all'atto estremo del suicidio. Ma so pure che il nostro Creatore è Dio e potente da preservarci da ogni caduta. Giuda 1:24. Egli è pote Nuovo Testamento e su questa potenza dobbiamo riposare. Marzo 2005. Pellero.